Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ogni regione oggi può tranquillamente fotocopiare la legge del Veneto e sa che non avrà impugnative costituzionali e potrà celebrare il referendum. Però vedo con piacere nelle dichiarazioni che il referendum, che non serviva a nulla, era inutile, comunque già fa fare delle belle dichiarazioni al governo. Quindi ne prendo atto che c'è disponibilità a trattare e andiamo a trattare. Questa, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è la soddisfazione del presidente della regione Zaia il giorno dopo i referendum che si sono tenuti in Veneto, per l'appunto, e in Lombardia, soprattutto in Veneto, è stato un successo. E adesso parla di regione a statuto speciale, diciamo che per il momento è una provocazione, però qualcosa è successo, per cui diciamo che il dialogo con il governo è probabilmente magari è aperto, e magari ci sono anche le altre regioni. Potrebbe essere, come dire, una specie di battistrada che indica la via anche per le altre regioni. Staremo a vedere, perché effettivamente sono da più parti, si dice, anche Renzi l'ha detto, che non sono risultati da minimizzare. Poi certamente non è da minimizzare l'atto di grandissimo squallore inqualificabile degli ultralaziali all'Olimpico ieri a Roma, poi ne parleremo, ci sono vari interventi adesso su questa vicenda. E ci occuperemo anche di una nuova minaccia che Trump fa alla Nord Corea. Avrebbe allertato i bombardieri B-52, quindi bisogna chiedersi se sono veramente venti di guerra oppure se Trump ogni tanto lancia così una minaccia a Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, per dire stai lì buono, mi raccomando, perché altrimenti sarà peggio per te. Per i vostri commenti, per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi lì giorno e notte, oppure un numero che è quello per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Gli argomenti sono tanti, sono importanti, quindi se volete fare le vostre riflessioni, mentre io, come sempre, prima di tutto vi racconto in sintesi la giornata. Il referendum in Lombardia e Veneto, Maroni dice Gentiloni è disponibile al confronto, Zaia chiede lo statuto speciale per il Veneto, Renzi invita a non minimizzare i risultati del voto. Insulti antisemiti, trovati adesivi con l'immagine di Anna Franca con la maglia della Roma, inchiesta della FIGC sui tifosi laziali, il portavoce della Lazio dice domani saremo in sinagoga. Banca Italia, non si spegne la polemica politica sulla successione a Visco. Corea del Nord, il presidente americano Trump allerta i bombardieri nucleari B-52, la prima volta dalla guerra fredda. Immigrazione, perquisita la nave di Save the Children nel porto di Catania, disposta dalla procura di Trapani, l'ONG dice noi siamo estranei alle indagini. Spagna, la Catalogna verso la dichiarazione di indipendenza giovedì. E partiamo quindi dai referendum consultivi che ci sono stati appunto in Lombardia e in Veneto, soddisfatti, come avete sentito, Zaia, ma anche Maroni, e ora si analizzano i risultati. Il Veneto, regione a statuto speciale, all'indomani del referendum che ha visto i veneti votare in massa per l'autonomia, il presidente della regione Luca Zaia, in una riunione straordinaria del Consiglio regionale, ha presentato le delibere da portare in Parlamento, tra cui anche quella di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale. La legge dice che, raccolto il dato e superato il quorum, dice questo la legge, il presidente della regione presenta al Consiglio regionale un programma di negoziati e un disegno di legge. Rivendica Zaia inoltre tutte e 23 le competenze previste dalla Costituzione e dice di agire in piena collaborazione con Maroni. Spera di chiudere la partita entro l'anno. Quanto a una sua possibile candidatura a Premier è netto. Non esiste, resto in Veneto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Treviso. Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose. Mi rendo conto di avere adesso un impegno altrettanto importante, che è quello di dare concreta attuazione al mandato che il popolo lombardo mi ha assegnato. Così il presidente della Lombardia Maroni il giorno dopo il voto per il referendum sull'autonomia, un voto che segna un'affluenza pari al 38,5%, di questi il 95,29% si è espresso per il sì, il no sono al 3,9%, le schede bianche 0,8%. Un voto dunque che racconta le varie anime di una regione. Si è votato ad esempio poco a Milano, 31,20%, mentre la provincia in cui si è votato di più è stata Bergamo con il 47,37%. A trattare con il governo Maroni andrà forte degli oltre 3 milioni di lombardi che hanno dunque votato al referendum. Ho parlato col presidente Gentiloni questa mattina. Il presidente Gentiloni mi ha confermato l'interesse del via libera del governo al confronto su tutte le materie. In chiusura una battuta sul voto elettronico, prima volta in Italia, un voto che ha funzionato, dice Maroni. A chi sottolinea però che i dati sono arrivati con profondo ritardo replica: c'è stato un problema con 300 chiavette. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torniamo a parlarne e cerchiamo anche di capire che cosa è successo a livello tecnologico. Intanto, sempre parlando di politica, sulla successione alla guida di Banca Italia la polemica continua. Occhi puntati sul Consiglio dei Ministri di venerdì, chiamata ad indicare chi guiderà l'Istituto di Via Nazionale per i prossimi 6 anni. Non è escluso, come ipotizzato da fonti parlamentari, che il governo acceleri sulla questione per depotenziare le polemiche. Il fattore tempo al momento appare quello più importante, sia per la Banca d'Italia, che rischia di uscire comunque segnata da questa vicenda, sia per chi deve deciderne la guida. Una soluzione che non desse al governatore pieni poteri non sarebbe auspicabile, data la necessità per l'Italia di poter contare su una figura pienamente operativa nel difficile passaggio della fine del quantitative easing in sede di Banca Centrale Europea. Sul fronte politico resta il braccio di ferro tra Palazzo Chigi e PD. Renzi rivendica nel metodo e nel merito la mozione presentata contro Banca Italia, quindi si smarca da Visco. Lo volete confermare? Fatelo, dice all'esecutivo. Berlusconi difende l'attuale governatore, 5 Stelle e Lega lo bocciano. Quanto ad MDP, interrogazione a Gentiloni e Padoan per chiedere che la sottosegretaria Boschi non partecipi al Consiglio dei Ministri di venerdì. Su di lei, spiega Scotto, grava un pesante conflitto di interessi che non può essere più ignorato. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora passiamo alla manovra economica con le ultime novità. Proroga del bonus mobili a tutto il 2018, sconti fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, stretta contro le aziende che spostano profitti e utili all'estero con il solo obiettivo di pagare meno tasse. Sono alcune delle novità contenute nella nuova bozza della manovra approvata a salvo intese la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Previste poi più risorse per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego per il triennio 2016-2018. I fondi stanziati per il prossimo anno ammontano a 2,9 miliardi, necessari per garantire aumenti medi mensili di 85 euro in busta paga. Per i presidi delle scuole in arrivo un aumento netto mensile di circa 400 euro grazie all'equiparazione delle retribuzioni a quelle degli alti dirigenti della pubblica amministrazione. E il bonus verde per giardini e terrazzi condominiali resta fissato al 36% con un tetto a 5.000 euro per unità immobiliare. Non è escluso che la nuova bozza della manovra, ancora da depositare in Parlamento, potrà però subire ulteriori limature. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo quindi allo squallore degli ultralaziali, come dicevamo all'inizio, sui quali si è riversata una bufera per l'inaccettabile azione razzista, i cui lasciti sono stati poi ritrovati questa mattina allo Stadio Olimpico di Roma. Adesivi con l'immagine in fotomontaggio di Anna Frank con la maglia della Roma e scritte antisemite, offese di ogni tipo, nella curva sud dopo la partita di Cagliari col Cagliari di ieri sera. Gli adesivi e i volantini offensivi sono stati rimossi in mattinata dagli addetti alle pulizie, immediata la protesta della comunità ebraica romana che dice fuori gli antisemiti dagli stadi. La FIGC apre una inchiesta sulla vicenda e poi invece il portavoce della Lazio dice che domani una delegazione con anche il presidente Lotito sarà in sinagoga a Roma, e questo sarà un altro tema di approfondimento, come dicevo, di questa puntata. Ora notizie dall'estero. L'aviazione militare americana ha fatto sapere che sta per diramare un'allerta per i propri bombardieri nucleari B-52 perché siano pronti ad agire, se necessario, anche in 24 ore. Questo in seguito alle crescenti tensioni tra l'amministrazione Trump e il regime della Corea del Nord. Lo riportano alcuni media americani, citando fonti del Pentagono, ed è questa la prima volta che accade una cosa del genere dalla Guerra Fredda. È una delle minacce, dicevamo all'inizio, di Trump, che ogni tanto lancia Kim Jong-un per evitare che prenda decisioni scellerate, o sono effettivamente venti di guerra come qualcuno paventa, no? Diciamo, a volte nelle decisioni un po' forse fuori controllo di Trump. Tra poco ci collegheremo nel corso di Effetto Notte con gli Stati Uniti per sapere qualcosa di più. E poi c'è la crisi spagnola. Il presidente catalano Puigdemont interverrà al Senato spagnolo probabilmente mercoledì per opporsi all'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione contro la Catalogna, quello che sospenderebbe l'autonomia della Catalogna. Giovedì intanto il Parlamento catalano terrà una sessione per decidere come rispondere al commissariamento e forse votare la dichiarazione di indipendenza. La piattaforma degli studenti catalani indipendentisti intanto ha proclamato una giornata di sciopero contro il commissariamento proprio per giovedì. Immigrazione adesso con l'inchiesta di Trapani che ha portato a una perquisizione su una nave di Save the Children. Perquisizione a bordo della Vos Estia, nave appartenente all'ONG Save the Children, che si trova ormeggiata al porto di Catania. Agenti della Polizia di Stato, del Servizio Centrale Operativo e Guardia Costiera hanno sequestrato dei computer e altro materiale tecnico alla ricerca, quanto si apprende, di documenti inerenti alla gestione di alcuni trasbordi di immigrati clandestini nel tratto di mare immediatamente vicino alle acque territoriali libiche. La perquisizione è stata disposta dalla Procura di Trapani, che ha da tempo aperto un fascicolo sull'operato delle ONG e posto sotto sequestro ad agosto la nave Juventa della ONG tedesca Jugendrettet, accusate di contatti con i trafficanti e dunque di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accuse sempre respinte dalla ONG. A settembre era finito nel registro degli indagati anche Marco Amato, il comandante della Vos Estia. A bordo della nave di Save the Children ha operato anche per diverso tempo un agente sotto copertura che avrebbe documentato gli intrecci delle operazioni in mare tra le navi delle due ONG. Save the Children si dichiara estranea alle indagini, ribadendo la sua condotta trasparente. La direttrice programmi Italia Europa, Raffaella Milano. Si è svolta una perquisizione nell'ambito di un'indagine che è su presunte condotte illecite commesse da terze persone. Quindi allo stato Save the Children non è indagata. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi sapete dell'allarme smog che riguarda in particolare la pianura padana. 12 grandi metropoli mondiali, tra cui proprio Milano, vogliono trasformarsi in territori senza energie fossili entro il 2030. In occasione del vertice dei sindaci del network C40 che ci sarà a Parigi, la sindaca della capitale francese Anne Hidalgo, insieme con gli omologhi di Milano, Londra, Barcellona, Quito, Vancouver, Città del Messico, Copenaghen, Seattle, Città del Capo, Los Angeles e Auckland, hanno firmato un patto con cui si impegnano a trasformare una parte importante delle loro città in territori a zero emissioni. E a proposito di città, parliamo di città ed eleganza. 4 città italiane figurano nella classifica delle 10 più eleganti, stilata da un sito di vendite online pubblicata dal magazine Madame Figaro. Secondo la classifica, guidata da Parigi, al secondo posto Londra e al terzo Vienna, la prima delle città italiane è Venezia, al quarto posto, seguita da Firenze. Milano e Roma figurano rispettivamente al nono e decimo posto. Il sito ha stilato la classifica sulla base del voto di 2.000 giornalisti di moda e architettura. L'Italia, quindi, con le sue 4 città nella top 10 è la più rappresentata. Direi di chiudere con questa una notizia di calcio: 2 giornate di squalifica per condotta gravemente antisportiva. Questa è la sanzione per Leonardo Bonucci, decisa dal giudice sportivo di Serie A, Mastroandrea. Il rossonero è stato espulso ieri per aver dato una gomitata al genovano Alessandro Rosi, anche se adesso vedevo una sua dichiarazione che dice: l'ho fatto solo per smarcarmi, non era volontario. Comunque, questa è la sintesi della giornata e tra poco sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia e poi cominciamo ad approfondire i vari temi con gli ospiti. Per i vostri messaggi, 349-238-6666, il numero per WhatsApp ed SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti pieni di notizie, di racconti della giornata, di approfondimenti con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi. Ricominciamo allora dalla politica, tra pochissimo, con i referendum che ci sono stati ieri in Veneto e in Lombardia. E vedo un sacco di vostri messaggi su questo argomento, in particolare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma anche i vostri messaggi potete scriverli a 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Per esempio, dice questo ascoltatore, Riccardo, potrebbe mettere in difficoltà il centrodestra se vince le prossime elezioni, questa cosa del referendum, non so perché Riccardo, comunque questa è il suo parere. Mentre Elena dice: io non sono andata a votare, pensavo che i non votanti fossero di più in Lombardia. Poi Francesco: si poteva avviare la procedura senza referendum come ha fatto l'Emilia Romagna, risparmiando una barca di soldi. Ecco, anche su questa polemica magari ci torneremo, e sul modello che si sta adesso definendo il modello Emilia Romagna, perché evitando il referendum è andata direttamente al Presidente del Consiglio con un iter che era già stato avviato da qualche tempo. Ce ne occuperemo tra pochissimo. Intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono i fatti principali della giornata. Per l'appunto, il referendum in Lombardia e Veneto. Maroni che dice che Gentiloni è disponibile al confronto. Zaia che chiede lo statuto speciale. Insulti antisemiti, trovati adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma. Inchiesta della FIGC sui tifosi laziali. E il portavoce della Lazio dice: domani saremo in sinagoga. Banca Italia: non si spegne la polemica politica sulla successione di Visco. Corea del Nord. Il presidente americano Trump allerta i bombardieri nucleari B-52 ed è la prima volta dalla guerra fredda. Spagna e la Catalogna verso la dichiarazione di indipendenza, probabilmente giovedì. Oh, in questo caso naturalmente non si tratta di indipendenza o di secessione, perché sono referendum regionali di Lombardia e Veneto che ci sono stati ieri, sono stati consultivi, quindi non vincolanti, però diciamo che soprattutto nel Veneto il voto è stato un successo, ha votato il 57,2% della popolazione e il 98% di quelli che hanno votato sì per una maggiore autonomia del Veneto. In Lombardia decisamente meno hanno votato rispetto al 57,2% del Veneto, ha votato il 38,2% e i sì erano il 96% dentro questo 38,2%. E ci sono stati in Lombardia anche dei disguidi informatici, evidentemente c'erano dei problemi, ha detto Maroni, per quanto riguarda le chiavette elettroniche, perché si votava attraverso questi tablet che così bizzarramente venivano da una società venezuelana perché ha vinto l'appalto della regione Lombardia. C'è stato qualche problema, tant'è che lo scrutinio è andato lentissimo. E c'è stata anche la rivolta degli scrutatori ai seggi, perché sono rimasti lì bloccati per ore. Ci sono delle foto anche di questi per terra ormai esausti oppure sdraiati da qualche parte per dormire. Insomma, comunque, sentiamo per questo proposito Maroni che cosa ha detto, perché dice no, alla fine è andato tutto bene. Sentiamo Maroni. Il sistema elettronico ha funzionato in piena sicurezza, i paventati attacchi hacker non si sono visti, perché il sistema è sicuro e non consente hackeraggi o intrusioni di nessun tipo. Quindi è il futuro. Abbiamo sperimentato il futuro per l'Italia, per il sistema di voto che potrà essere utilizzato in qualunque elezione. E io chiederò, ho già preannunciato al ministro Minniti, che già le prossime elezioni in Regione Lombardia possano utilizzare questa procedura. Questa procedura si spera, diciamo, in modo più efficace, ecco, perché qualcosa si è effettivamente inceppato in questo scrutinio elettronico. E adesso invece la soddisfazione di Zaia, presidente della Regione Veneto. Ogni regione oggi può tranquillamente fotocopiare la legge del Veneto e sa che non avrà impugnative costituzionali e potrà celebrare il referendum. Però vedo con piacere nelle dichiarazioni che il referendum, che non serviva a nulla, era inutile, comunque già fa fare delle belle dichiarazioni al governo, quindi ne prendo atto che c'è disponibilità a trattare, andiamo a trattare. Questo Zaia quindi a Radio 24 questa mattina, 24 mattino. Barbara Fiammeri, ciao Barbara, del Sole 24 ciao. Ore. Barbara, allora, a parte appunto gli inceppi, disguidi eccetera, da un punto di vista politico qualcuno l'ha vista come una mossa puramente elettorale, perché siamo già in campagna elettorale, mentre da più parti, anche Renzi, insomma, dicono che insomma un risultato davanti al quale non si può rimanere indifferenti, che merita comunque dell'attenzione. Quindi che impatto secondo te, che cosa ci racconta questo doppio referendum e questi risultati? Ma intanto la diversità del risultato, che secondo me va sottolineata, cioè la risposta del Veneto è stata una risposta direi molto forte, nel senso che oltre al voto c'è questo 98% del 60% dei veneti che dice sì a una maggiore autonomia. E dall'altro invece in Lombardia ha votato meno del 40% della popolazione, e peraltro c'è anche un 5,5% mi sembra che abbia votato no, quindi la risposta dei lombardi è decisamente inferiore a quella dei veneti, e questo è un dato che deve far riflettere anche per la stessa Lega, diciamo. E poi però certo c'è una valenza di carattere elettorale, d'altronde siamo anche a pochi mesi dalle elezioni e per quanto riguarda la Lombardia anche a pochi mesi dalle elezioni in Lombardia, cioè per il rinnovo del consiglio regionale. Sì. Ma è chiaro che questo referendum da un lato fa tornare in mente la Lega delle origini, no? Anche se non si parla più di secessione, di Padania, però insomma... Maroni ha detto che questa è la fase 3, quella del regionalismo. Sì, sì, fatto sta che dopo un tentativo che prosegue, cioè di Salvini, di portare la Lega su temi di carattere nazionale, l'immigrazione, l'economia, i due uomini forti di governo della Lega, ovvero Zaia e Maroni, hanno puntato su quelle che sono le esigenze dei territori, che poi erano le istanze da cui ha preso l'avvio la Lega Nord di Bossi, insomma. E quindi è una Lega di governo quella che si è espressa con i due referendum. Questo cosa significa? Significa che quelle istanze, nonostante il tempo passato, restano ancora molto forti, appunto, e il responso arrivato soprattutto dal Veneto lo conferma. E allo stesso tempo lancia, come dire, un avvertimento a quanti, a partire dal Partito Democratico, ma anche lo stesso Movimento 5 Stelle, che si sono, come dire, hanno cavalcato un pochino l'onda solo nella parte finale, no? Di questo referendum, e anche abbiamo visto nelle dichiarazioni di oggi di Grillo o di Renzi, che dicono, che come dire, salutano positivamente il popolo che si è espresso, sono costretti a farlo perché di fronte a risultati così forti non possono rimanere, sarebbe impopolare. Anche se Grillo ha detto i cittadini Lombardia e Veneto hanno partecipato, votato, deciso, non possono rimanere inascoltati, e poi dice però che la Lega si è comportata vergognosamente sventolando il tema dei residui fiscali delle regioni, che non c'entrano niente. Ricordo, i residui fiscali sono la differenza tra quello che una regione dà allo Stato centrale di imposte e quello che invece poi riceve, no? Come lui. Sì, Grillo ha ragione, perché il quesito, perché altrimenti, se fosse stato diversamente, quei due referendum non sarebbero stati nell'alveo costituzionale, cioè si sarebbero posti in contrasto con l'articolo 116. Però oggi la giunta guidata da Luca Zaia, la prima decisione che ha preso è quella di avviare un percorso di riforma costituzionale, cioè di per lo statuto speciale vuole, perché per il Veneto. Vuole che il Veneto diventi una regione a statuto speciale, e una regione a statuto speciale, appunto, ha una gestione diversa dei residui fiscali, per l'appunto di quelli di cui si parlava. Quindi in realtà io quello che vedo è che da parte di Zaia, dopo un risultato così importante, c'è un'accelerazione che magari in termini, come dire, concreti non porterà a risultati immediati. Ecco, a proprio delle conseguenze, no? Che sì, ti avevi chiesto, perché, Barbara, non immediatamente. Per portare a risultati conseguenti, cioè regione a statuto speciale, serve un passaggio parlamentare costituzionale, e quindi sappiamo benissimo le difficoltà di un passaggio del genere. Ma al di là di questo, è la valenza politica del messaggio che dà Zaia, e che mette Zaia in una luce, secondo me, diversa da quella che ha avuto fino ad oggi. Mm-hmm. Cioè il governatore del Veneto, secondo me, sta diventando un serio candidato alla leadership di un centrodestra di governo, anche se lui ha negato, però sai che si nega e poi dopo invece. Senti Barbara, ti leggo velocemente alcuni messaggi degli ascoltatori e ascoltatrici, sono tanti su questo argomento. Giorgio dice: un bel momento di vita politica, è stato trasversale, in cui i partiti hanno dato una prova di sé di gran lunga superiore allo spettacolo orrendo che offrono solitamente a livello nazionale, anche con posizioni più originali e meditate. Giuliano dice: sarebbe stato più onesto e credibile se il quesito fosse stato: tu, cittadino veneto-lombardo, vuoi più soldi? Io invece abolirei le regioni, dice, vera piaga di corruzione e clientelismo del paese. Gilles scrive: buffonate, specie quella lombarda con la tragicommedia del voto elettronico, falsificabile dal primo che passa e andando in crash con d'abitudine italienne. Poi magari ne parleremo con un informatico che dovremo raggiungere tra poco. E poi Francesco dice: si poteva avviare la procedura senza referendum come ha fatto l'Emilia Romagna, risparmiando una barca di soldi. Infatti poi parleremo brevemente del modello emiliano romagnolo. Enzo scrive: vedo solo commenti negativi, io penso che conoscere il parere dei cittadini sia sempre utile, il problema è come verrà gestito. Poi Giuseppe, rivorrei parte dei miei soldi che so sono serviti per salvare le due banche venete, se non erro ci è costato 25 miliardi di euro o più soldi pure del sud. Riccardo, potrebbe mettere in difficoltà questa cosa il centrodestra, ma era quello il messaggio di prima, non ho capito bene perché. Grazia dice che il 60% delle persone non si esprime con il voto, salvo poi lamentarsi il giorno dopo. C'è poi un ascoltatore, Barbara, che scrive: ma come fa il presidente della regione Emilia Romagna, visto che in modo parallelo l'Emilia Romagna aveva imboccato già un percorso, aveva sottoscritto una lettera di intenti già tempo fa, no? E che ha sottoposto al presidente del Consiglio Gentiloni, dice: come fa il presidente della regione Emilia Romagna, evidentemente senza referendum intende l'ascoltatore, sapere che i cittadini della sua regione vogliono l'autonomia? Allora, se devo rispondere a questa domanda... No, perché... quello che preferisce, no, dei tanti che ti ho letto. Per quanto riguarda la questione dell'Emilia Romagna, è perché si potrebbe rispondere che questo vale per qualunque legge una giunta regionale, un consiglio regionale decide di approvare, cioè c'è una rappresentanza, evidentemente il governatore di quella regione ritiene, essendo stato eletto, di rappresentare le istanze dei suoi elettori in questo modo. È vero che l'operazione fatta da Zaia e Maroni certamente è un'operazione che politicamente li rafforza nel momento in cui c'è un negoziato con il governo, ripeto, soprattutto Zaia, perché quando ti presenti di fronte al Presidente del Consiglio con delle richieste e dietro di te hai un voto così forte dei tuoi elettori, cioè ha una valenza politica questo, che da un punto di vista procedurale non conta nulla, nel senso potevano fare esattamente come ha fatto il governatore dell'Emilia. Ripeto, però la forza politica è diversa quando ci si siede a un tavolo sapendo di avere dietro un esercito di sì. Come scrive Igor, comunque il risultato del referendum ha mandato un inequivocabile messaggio a Roma del quale dovrà tenere conto. Senti, abbiamo ancora un minuto per Gabriele Fagioli, che dovevamo raggiungere in realtà qualche minuto fa ma non rispondeva, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e direttore scientifico dell'Osservatorio Sicurezza e Privacy del Politecnico di Milano. Fagioli, buonasera. Buonasera. Siamo un po' in corsa adesso. Ci dice brevemente che cosa può essere successo durante lo scrutinio elettronico, durante il voto elettronico in Lombardia? Beh, probabilmente c'è stato un po' di ingorgo in tutto il passaggio delle chiavette che ha portato a dei rallentamenti. Da un punto di vista però di notizie legate alla sicurezza, mi pare che quello che è uscito negli scorsi giorni in realtà poi si sia un po' risolto in niente, perlomeno per il momento non sono uscite altre indicazioni negative. Sicuramente l'organizzazione non è stata il meglio, visto i tempi di scrutinio di cui sta parlando. È un po' particolare anche che venissero dal Venezuela questi tablet, è vero, aveva vinto una società venezuelana l'appalto della regione Lombardia, magari non so, fossero stati più vicini, si poteva, anche perché sembra che avesse dei codici per cui si poteva impedire nel modo più assoluto appunto pirateria, hackeraggio. Sì, sì, le misure di sicurezza di cui hanno parlato sembravano effettivamente di una certa rilevanza. Ovviamente tanta sicurezza, che naturalmente è fondamentale ancora di più nell'esercizio del voto, vuol dire però creare dei problemi di tipo organizzativo. Forse un aspetto di formazione delle persone, di conoscenza dei meccanismi e anche insomma di rodaggio di cosa vuol dire fare questo tipo di operazioni per il futuro sarà utile, perché la direzione non potrà che essere il voto elettronico. Quindi prove tecniche per il momento e poi dopo magari se sarà più capaci, più efficaci, più consapevoli. Grazie Gabriele Fagioli. Grazie, buona serata. E Barbara Fiammeri, a presto Barbara. Grazie, buonasera. Ciao. E abbiamo questa pausa, voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto e anche se volete con voi la conduttrice giusta Roberta Giordano. Siamo alle 21:39 minuti e prima di passare al prossimo argomento leggo ancora velocemente alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati sui due referendum di Lombardia e Veneto. Angela dice: non sono andata a votare a Bergamo perché non credo alle promesse di Maroni e non mi piace chi gioca sulla credulità delle persone. Hai presente la furbizia di Bertoldo? Dice: non mi sembra che il 38% della Lombardia sia un gran risultato. Certamente è andata molto meglio in Veneto, però insomma sicuramente è un'istanza che si diffonderà molto probabilmente anche verso varie altre regioni. E poi, dice quest'altro ascoltatore, bello il referendum, ma da Roma hanno già chiarito che i soldoni delle tasse non si toccano. Infatti quello è uno degli argomenti che è di pertinenza dello Stato centrale, che riguarda anche l'equità, la solidarietà nazionale, quindi è un tema che, sul quale probabilmente non c'è, diciamo, una negoziazione. Adesso cambiamo argomento e lo introduco, tra l'altro, prima di ricordarvi le notizie più importanti, con il messaggio di un'ascoltatrice, vediamo se lo ritrovo, a proposito di quello che è successo allo Stadio Olimpico. Vediamo se... no, non, per il momento non lo ritrovo, però riguardava appunto il comportamento... Eccolo qua, Silvia dice: ciao Roberta, sono una cittadina romana e tifosa romanista e sono davvero disgustata dagli insulti antisemiti degli ultrarazziali. È ora di colpire duramente questi comportamenti. Propongo la sottrazione di 10 punti dalla classifica della squadra che annovera tifosi così incivili, scrive Silvia. Infatti ne parleremo tra pochissimo. Vi ricordo che le altre notizie sono il referendum di Lombardia e Veneto, di cui abbiamo appena parlato, e poi Banca Italia con le polemiche che continuano sulla successione a Visco, e per la Corea del Nord il presidente americano Trump che allerta i bombardieri nucleari B-52. Quindi soffermiamoci su questa azione indegna di chi non si capisce cosa abbia al posto del cuore, soprattutto del cervello, non vogliamo indagare, riguarda gli ultralaziali che hanno appiccicato durante la partita di ieri con il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma, nella curva sud, perché già quella nord, quella tradizionale dei sostenitori biancocelesti, è squalificata per razzismo. Hanno distribuito e attaccato volantini e adesivi con l'immagine in fotomontaggio di Anna Frank con la maglia della Roma, scritte antisemite, insulti di ogni tipo, quindi non soltanto, no, questa ferocia così obnubilata nei confronti di tutta la Shoah, di milioni di ebrei che sono, di donne e uomini che sono morti nei campi nazisti, ma anche nei confronti dei bambini. Anna Frank è il simbolo, no, di tutti i bambini che sono morti, hanno subito sofferenze di ogni tipo nella follia nazista. Intanto immediata è stata la protesta della comunità ebraica, che ha detto fuori gli antisemiti dagli stadi. La FIGC, la Federazione Calcio, aprirà un'indagine, un'inchiesta. Il ministro dello sport Lotti ha detto: quello che è accaduto ieri sera è gravissimo, i colpevoli saranno presto individuati e condannati, cosa che speriamo. Intanto coinvolgo Edoardo Amati, che è consigliere della comunità ebraica di Roma. Buonasera Amati. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie a lei per la disponibilità. Il portavoce della Lazio, che è Arturo Diaconale, prima ha detto che si è trattato, insomma, di sì, una cosa inqualificabile, però dice è legata solo a poche persone che non coinvolgono, insomma, i tifosi, che si sono sempre comportati bene in maniera regolare, e poi ha assicurato che domani alle 12 saranno in sinagoga una delegazione della Lazio anche con il presidente Lotito. Che ne pensa? Quest'ultima notizia non ne sappiamo nulla, e per quanto riguarda i pochi o i tanti non sta a noi giudicare. La sento piuttosto male, Amati. Lei ha preso freddo, ha preso freddo un po'. Freddo, No, sì. Assolutamente. Dicevo, per quanto riguarda la visita di domani, noi non sappiamo nulla riguardo questa visita. Per quanto riguarda invece il numero dei tifosi coinvolti, qua non si tratta di numeri, si tratta di un atto abbastanza grave dal nostro punto di vista, che dovrebbe essere il punto di vista di tutti gli italiani, di qualsiasi cittadino italiano. Poco prima di collegarmi con voi leggevo su Google le notizie. Ho visto che è arrivato addirittura in America, Mi perdoni Amati, la sento veramente male, non so se il telefono o se dobbiamo richiamarla, ci proviamo ancora un attimo. Lei ha detto che è arrivata, che cosa è arrivata prima di collegarci con noi? Prima di collegarmi con voi vedevo la notizia su Google, che è arrivata addirittura nei titoli dei giornali americani, dei giornali anche inglesi, quindi la notizia che ha avuto una grande diffusione. Questo, diciamo, che per noi italiani non è una bellissima figura, una bellissima situazione. Amati, la richiamiamo intanto. C'è Marco Bellinazzo in collegamento del Sole 24 Ore, il nostro Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao, eccomi, buonasera. Ecco, tra l'altro non è la prima volta, no, che diciamo si distinguono per questo squallore gli ultralaziali, no, perché c'erano già stati degli sticker, degli adesivi con l'immagine della povera Anna Frank, no, in maglia giallorossa nel 2013, mi pare. Guarda, devo dire che insomma io tendo a non far parte della schiera degli indignati di mestiere o degli indignati del giorno dopo, nel senso che questa cosa è gravissima, ma appunto chi dovrebbe vigilare su queste cose sa benissimo che non è un fatto inedito assolutamente, che la curva della Lazio, così come altre curve, siano frequentate e non da pochi personaggi che sono esponenti, diciamo, di visioni razziste, di visioni nazifasciste, insomma questo è un fatto notorio, e la cosa, come ricordavi all'inizio, più grave è che questo episodio accade dopo che già la curva nord, quella classica dei tifosi biancocelesti, era stata squalificata tra virgolette per episodi di razzismo. La Lazio aveva avuto l'idea di andare ad aprire l'altra curva, quella che di solito ospita invece tifosi giallorossi, e in qualche modo si è fatta corresponsabile di questo episodio, quindi evidentemente c'è un problema di fondo, ma che è, voglio dire, continuo e quasi connaturale a quelle che sono le ideologie professate da certe curve, non lo si scopre certo oggi. Poi chiaramente oggi c'è un episodio gravissimo che va condannato, ci mancherebbe altro, però non vorrei che poi tutta questa indignazione, come al solito scema, e i provvedimenti reali, efficaci, poi non vengono quali presi. Quali potrebbero essere dei provvedimenti reali, efficaci, anche secondo la giurisprudenza sportiva, Marco, una volta per tutte? C'erano e ci sono delle norme che un po' sono state annacquate sulle discriminazioni, sui cori appunto razzisti, addirittura si parlava di discriminazioni territoriali, non un paio di anni fa, ti ricorderai, sì, quando le curve venivano chiuse per i cori contro i napoletani, o comunque in genere per discriminazione territoriale, che a maggior ragione in questi casi in cui c'è un'apologia del fascismo, un'apologia del nazismo, è evidente che i provvedimenti dovrebbero essere molto gravi, innanzitutto ovviamente cercando di individuare con le videocamere chi si è reso responsabile, e le forze dell'ordine e le società conoscono gran parte di questi soggetti, e quindi perseguirli dal punto di vista penale. E poi c'è una questione, quella della responsabilità oggettiva, che nel caso specifico può riguardare la Lazio società, che voglio dire, al di là di tutto, ha commesso un grave errore, non dando un senso di colpevolezza alla propria tifoseria per quello che era accaduto e che aveva comportato la chiusura, ripeto, della curva nord, ma addirittura agevolando poi l'ingresso nella curva sud, e quindi, come dire, rendendo un po' superficiale, no, quel provvedimento. Sì. E di conseguenza anche la federazione a questo punto, a livello di giustizia sportiva, deve prendere i provvedimenti. Vedo che Tavecchio, presidente della FIGC, dice: un fatto inqualificabile, offende una comunità e tutto il nostro paese, però effettivamente poi vedremo i provvedimenti. Un ultimo commento, Edoardo Amati. Sì. Su questa vicenda. Sì, adesso meglio mi sembra. Sì, dicevo che offende tutto il nostro paese, tutti come noi cittadini italiani. E dicevo prima che infatti vedevo sulle notizie che scorrevano su Google, e una notizia che è arrivata addirittura negli Stati Uniti, quindi ha fatto un bel viaggio, quindi ha dato molto scalpore in tutto il mondo. Quindi insomma, certo, una bella figura, faremo forse una figura migliore se questi atti vengano insomma condannati e repressi in qualche modo. Lei, se si trovasse di fronte uno di questi, chiamiamoli ultralaziali, ma sono degli ominidi piuttosto squalidi, cosa si sentirebbe di dire, Amati? Che è poco rispettoso nei confronti della storia, non tanto di un solo popolo, in generale della storia italiana. E che cosa si aspetta adesso? Mi aspetto che la giustizia, che la Federazione Italiana Gioco Calcio possano prendere dei provvedimenti adeguati rispetto a quello che è accaduto. Grazie Marco Bellinazzo, grazie Edoardo Amati. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Ciao Marco, grazie. E c'è la viabilità. F24. Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo per i ritardatari molto brevemente le notizie principali. Abbiamo appena parlato dell'azione inqualificabile, squallidissima degli ultra laziali con questi insulti antisemiti che hanno lasciato con adesivi e volantini ieri all'Olimpico di Roma, con l'immagine di Anna Frank con un fotomontaggio. Poi abbiamo parlato di referendum in Lombardia e Veneto. Per quanto riguarda Banca Italia, continua la polemica politica sulla successione di Visco. Immigrazione, è stata perquisita la nave di Save Children nel porto di Catania, è stata disposta dalla procura di Trapani e l'organizzazione non governativa dice: noi siamo estranei alle indagini. Adesso parliamo della crisi nordcoreana. Ci colleghiamo con il nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao a voi. Allora, quindi la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord non è affatto sfumata, anche se non se ne parla costantemente, ogni tanto riemerge, e evidentemente c'è sempre, diciamo, sempre presente. La notizia di oggi è piuttosto inquietante, poi ci direi tu, che l'aviazione militare americana ha fatto sapere di voler allertare i propri bombardieri nucleari B-52 perché siano pronti ad agire, se necessario, anche in 24 ore. Qualcuno, forse appassionato di armi, come Fabio, come Walter, dicono che i B-52 sono un residuato bellico paragonabile oggi a un biplano da prima guerra mondiale. Ma comunque, come stanno le cose, Marco? Ma sicuramente sono una vecchia arma potente nell'arsenale degli Stati Uniti, però il loro valore, diciamo, simbolico e anche militare non può essere sottovalutato. Possono portare ordigni di varia natura, di varia capacità, appunto, soprattutto ordigni nucleari, possono volare a un'altezza di oltre 50.000 piedi e sono stati, diciamo, a lungo l'ossatura un'ossatura essenziale del deterrente nucleare americano. Erano stati di fatto parcheggiati alla fine della guerra fredda da George Bush Senior nel 91, e a questo punto, appunto, viene la notizia è che l'aviazione americana potrebbe, pronta, casomai arriva l'ordine, è pronta a rimetterli, diciamo, in servizio attivo, cioè in allerta, in uno stato di allerta 24 ore su 24, che era appunto lo stato d'allerta da clima di guerra fredda, in cui erano pronti a partire in ogni momento dietro un ordine del Pentagono e della Casa Bianca. Ecco, chiaramente il messaggio è soprattutto, ancora una volta, così politico: gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump è pronta a tenere sul tappeto opzioni militari, in particolare nei confronti della Corea del Nord, come ricordavi, è ancora al centro di una escalation costante di tensioni che non, appunto, di cui magari qualche giorno si parla di più, qualche giorno di meno, ma che rimangono del tutto irrisolte, in cui l'amministrazione Trump non è ancora riuscita a trovare una strategia per la soluzione, diciamo, di questa crisi. Quindi è sicuramente un segnale che ha fatto correre brividi lungo la schiena di molti diplomatici ed ex diplomatici, anche se il capo di staff dell'aviazione americana ha precisato che non ci sono al momento scenari concreti di uso, di mobilitazione di questi aerei, ma si tratta soltanto per il momento di preparativi e di misure precauzionali. Chiaro. Grazie Marco Valsania. Ciao Marco. Grazie a voi. Marco degli Stati Uniti. C'è tra i tanti messaggi Marzio da San Paolo del Brasile, perché Effetto Notte, lo sapete, è ascoltato in tutto il mondo. Dice: seppure Zaia avesse potuto stabilire una trattativa con Roma senza quel referendum, il coinvolgimento del popolo veneto ha un effetto psicologico positivo, come se ci fosse una partecipazione di tutti. E poi invece Gianni da Bologna scrive: sono anni che i tifosi laziali fanno così, ma non ci sono punizioni pesanti, è tutto inutile, parole. Questo è il messaggio di Gianni. Poi continua a esserci per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, ma ci dobbiamo lasciare adesso perché ci sentiamo brevemente alle 22:00.